Ed eccoci qua a Radio Nair. Come ogni martedì vi terremo compagnia dalle 4 alle 5, la radio degli studenti medi. Il 12 aprile di quest'anno, il 2011, siamo di nuovo nello studio di Radio Onda Rossa sugli 87.9 MHz. Se ci volete chiamare potete comporre al vostro telefono il numero 06 49 17 50. Ascoltiamo come tutti i martedì la Rage. Ciao, sono passati 4 mesi dall'approvazione definitiva del DDL Gelmini al Parlamento. Nonostante la totale contrarietà del mondo della cultura e dell'opinione pubblica, non abbiamo fermato e non fermeremo la nostra rivolta. Il 20 aprile sarà un'altra giornata di mobilitazione. Scenderemo ancora in piazza in difesa dell'istruzione pubblica. Dalle 10. Lezioni all'aperto. Rappresentazioni teatrali. Concerti. Distribuzione di materiale autoprodotto. Interventi programmati. Arte. Cultura. E fotografia. Quindi, vieni in piazza Anco Marzio. Da Piramide, trenino Roma Lido, fermata Lido Centro, bus 01, 2 fermate. Vai cazzo! E questo era lo spot per il 20 aprile, che vedrà una giornata di mobilitazione, una giornata di cultura a Ostia, ma abbiamo collegato uno studente di Ostia, dell'Anco Marzio, che ce ne vuole parlare. Ciao! Ciao ragazzi! Dici allora, insomma, com'è nato questo, la voglia di fare questo evento e come si svolgerà, in quale modalità? Sì, allora, come già anticipato tu, sarà una grande giornata di mobilitazione per gli studenti di Ostia. Venezia, ma anche per gli studenti di Roma, del centro. La giornata nasce dall'esigenza di diffondere in ogni modo la cultura e di rivendicare il sapere come bene comune, insomma, di fronte a violenza e i provvedimenti di questo governo che ormai da anni ci sta privando, sta cercando di privarci della cultura e dell'istruzione. La giornata comincerà dalle 9:30, quando tutte le scuole di Ostia prenderanno assemblea di istituto e ci sarà il concentramento alle 9:30 davanti al liceo Anco Marzio, che è centrale qui a Ostia, e partiremo in corteo fino a raggiungere piazza Anco Marzio, dove ci sarà un palco. Saranno allestiti 6 banchetti informativi. La giornata sarà caratterizzata da concerti, suoneranno molte band del territorio e della città, da interventi programmati con molti ospiti e rappresentazioni teatrali delle compagnie teatrali delle scuole. I banchetti saranno gestiti da abbiamo cercato di dare spazio a molte associazioni che di spazio insomma non ne trovano facilmente nelle città, associazioni no profit come Libera del 13° municipio, Rete Radio 100 Passi. Ci sarà il banchetto del teatro occupato di Ostia, del teatro del Lido, che da poco ha compiuto un anno di occupazione e autogestione. Ci sarà il banchetto di una scuola di italiano per stranieri di Acilia, qua del territorio. Il banchetto degli studenti, in cui verranno distribuiti volantini, flyer e materiale autoprodotto, buscoli di informazione. Ci saranno mostre fotografiche anche da studenti della città, dal Mamiani, eccetera. Insomma, abbiamo cercato di creare questa grande giornata per continuare la mobilitazione, dimostrare che nonostante l'anno scolastico sta finendo, noi non fermeremo mai la nostra rivolta, e che finché questo governo continua a non ascoltare le richieste e le esigenze del mondo della cultura, degli studenti, degli insegnanti, dei precari, dei ricercatori, noi non possiamo permetterci assolutamente di fermarci. E quindi per me questa è la giornata. Io invito tutti quanti a partecipare, insomma. Lo spot, abbiamo detto anche l'indirizzo nello spot, dicevo. Da Piramide il trenino per Ostia, fermata Lido Centro, prendete l'autobus 01, sono 2 fermate e poi ci sentite, insomma. Quindi invitiamo tutti a mobilitarsi il 20 aprile e di venire a Ostia, insomma, in questa primavera. Sarà anche una grande festa, insomma, quindi invitiamo tutti quanti a partecipare. Sarà sicuramente un evento interessantissimo, interessante anche l'iniziativa, che diciamo si distacca un po' dalla classica magari manifestazione e va a centrare proprio i contenuti principali delle nostre proteste, che sono la rivendicazione della protezione della cultura, dell'arte, della scrittura, della musica, di tutto ciò che è cultura. Noi ti ringraziamo tantissimo, ti auguriamo grazie buona fortuna per questo 20 e dai forte. Dai, allora, a presto. Ciao. Bene, adesso prima di continuare con la puntata ci ascoltiamo un pezzo che è stato un po' il simbolo delle mobilitazioni, soprattutto dell'Onda. Loro sono gli Assalti Frontali, ci ascoltiamo il rap Denea. C'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea, e prese la parola in assemblea, c'ho un'idea. Il futuro dei bambini non fa rima con Cellini, c'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea, e prese la parola in assemblea, c'ho un'idea. Meglio dire no a Cellini che indossare i grembiulini, c'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea, e prese la parola in assemblea, c'ho un'idea. Noi diciamo no a Cellini, day and night, noi diciamo no a Cellini, day and night. Ciao, mi chiamo Enea, vado all'Iqbal Masik e c'ho una magliettina verde mela molto chic. C'è scritto sopra io amo e difendo la mia scuola, ma che maestro unico, Cellini sei una scuola. Lo sai che sono grande, sto in prima elementare e ho già occupato la mia scuola per 2 settimane. Dici che sono giovane, ho molto da imparare, ma siamo sotto attacco tutti e io mi do da fare. Non sono certo solo, sto insieme alla mia mamma, sto con le mie maestre, abbiamo fatto una capanna con tutti i sacca a pelo, i cuscini, i tappetini. Qui non ci prende. Prenderà nessuno. nessuno, nemmeno i cellerini. I grandi stanno sempre, dico sempre alla riunione, ma che ci avranno da parlare o gioco un po' a pallone. Sono tutti angosciati, ogni ora, ogni secondo sembra che una gran disgrazia sia caduta sul mio mondo. C'ho un'idea, c'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea, e prese la parola in assemblea. C'ho un'idea, il futuro dei bambini non fa rima con Cellini. C'ho un'idea, io ho due maestre, Mara e Simona, e se ci penso non so dirti quale sia e più buona. E state ascoltando Radio Nerds, 87.9 di Radio Onda Rossa, state con mattina, pomeriggio. Questa è la scuola pubblica, la scuola di tutti, la scuola che vogliono sfasciare questi farabutti. Faccio fioccolate, lancio di palloncini, ora ho capito che c'è dietro la Gelmini. E il 137, e il 133, se taglieranno via Simona io saprò il perché. Quest'aula sarà vuota, mancherà un pezzo, ma che ci torna a fare a casa a mezzogiorno e mezzo. Noi siamo i bambini di un'Italia malata, ci vogliono clienti per la scuola privata, ma blocchiamo il mondo e andiamo come un treno. Viva la scuola pubblica del tempo pieno. C'ho un'idea, c'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea, e prese la parola in assemblea. C'ho un'idea, il futuro dei bambini non fa rima con Cellini. C'ho un'idea, c'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea, e prese la parola in assemblea. C'ho un'idea, meglio dire no a Cellini che indossare i grembiulini. C'ho un'idea, c'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea, e prese la parola in assemblea. C'ho un'idea, noi diciamo no a Cellini day and night, noi diciamo no a Cellini day and night. Non ho paura, non ho paura, e questo è rap di Enea contro la dittatura. Io non ho paura, no, non ho paura, voglio stare insieme ai miei e vicino alla cultura. E se c'è la crisi, chi la pagherà? Noi siamo tutti uniti dalla culla all'università, perché dobbiamo vincere e lo faremo. Questa è un'onda anomala a tempo pieno, se ci sono streghe, fate, eroi e nani. Io faccio il rap di Enea, difendo il mio domani. E cari bimbi e bimbe, qui termina il racconto, ma ricordate sempre che l'orco paghi il conto. Questo è il rap di Enea, oh Enea Super Rap. Questo è il rap di Enea per le scuole elementari. Questo è il rap di Enea, oh Enea Super Rap. Questo è il rap di Enea, tagliamo i militari. Bene, adesso parliamo un po' delle mobilitazioni che si sono susseguite alla fine della scorsa settimana e che si continueranno appunto a susseguire, come abbiamo già sentito, ad Ostia il 20 aprile. E volevamo parlare appunto della giornata dell'8 aprile, di venerdì 8 aprile, e abbiamo subito una corrispondenza con un ragazzo per parlare un po' di cosa è stata quella giornata e del perché si è scelto di tornare in piazza. Ecco, ciao, ci senti? Sì, vi sento, ciao, grazie per la telefonata. Sì, l'8, diciamo, gli studenti medi dell'Assemblea Cittadina di Roma sono voluti scendere in piazza, hanno preso una giornata che non aveva un significato particolare, ma diciamo doveva essere la loro giornata per dimostrare che, anche se è un periodo dell'anno particolare, anche se gli universitari, che gli studenti medi devono studiare maggiormente, non possono scendere in piazza tutte le settimane o tutti i mesi, vogliono continuare a riportare in piazza i temi che vanno contro sia la riforma Gelmini e l'università, ancora quella del liceo, ma contro il mondo del precariato in generale e contro la politica di questo governo. Appunto, si è parlato proprio di scaldare la primavera. Sì, diciamo, il ricordo dell'autunno così caldo, noi diciamo non ci stiamo zitti neanche a primavera. Sì, diciamo, l'idea era un po' questa, dire che si deve scaldare la primavera, anche perché il 6 maggio c'è lo sciopero generale. Diciamo, questo corteo è stato fatto anche in vista dello sciopero generale, per riportare gli studenti che hanno partecipato nell'autunno in piazza, e diciamo così, per prepararli allo sciopero generale del 6 maggio. E diciamo, la primavera si inizia a scaldare da adesso, ma deve scaldarsi completamente il 6 maggio. Quindi diciamo, questo era il ragionamento che era dietro al titolo della giornata. Ho capito. Senti, andando più nel particolare, la giornata com'è andata? Cioè, quali sono state le dinamiche? Raccontaci un po'. Noi ci siamo visti con tutti gli altri ragazzi a Piramide, a Stazione Ostiense, e da là un corteo di circa 400 persone, all'inizio forse anche qualcuno in più. Ci siamo mossi fino, diciamo, concordato con la Digos, fino all'Arco di Tito. All'Arco di Tito noi volevamo continuare ad andare o verso il Lungotevere o verso comunque i Fori Imperiali, però là c'è stato categoricamente proibito di andare da qualsiasi parte, tanto che a un certo punto si è creata una situazione quasi ironica, nel senso che non potevamo andare avanti, non ci facevano tornare indietro, non sapevamo più dove andare. Veramente è stata una scena quasi divertente, tristemente divertente, diciamo. Però alla fine abbiamo concordato l'arrivo al Ministero, siamo arrivati al Ministero dell'Istruzione, e là c'è stata una contestazione sotto il Ministero, un po' come Londra 2 anni fa, e quindi così, diciamo, anche se non è stata partecipatissima, perché comunque non sono numeri eclatanti quelli di venerdì scorso, per noi è stata comunque una giornata positiva, in quanto si sono portati i temi in piazza dell'autunno, e per quanto, diciamo, abbiamo visto nelle persone la voglia di scendere in piazza, e alla fine, diciamo, la giornata è stata decisamente positiva. Ho capito, certo, i numeri non sono quelli che contano sempre, ma comunque io sono convinto, insomma, avendo letto comunque i comunicati, sentendo il tuo racconto, che quella giornata, insomma, per la funzione che aveva di rilancio dello sciopero generale del 6 maggio, sia, insomma, abbia avuto comunque una riuscita buona. Sì, sicuramente ha avuto un suo piccolo successo, anche per quello che si è visto poi in piazza. Alla fine le persone erano soddisfatte di quello che avevano fatto, alla fine questo penso che sia anche l'importante. Ho capito, benissimo. Senti, noi abbiamo anche sentito il tuo cane che ti chiama, perciò ti lasciamo andare, ti auguriamo un buon pomeriggio e buona fortuna per il futuro. Ok, ciao ragazzi. Ciao, grazie. Adesso andiamo ad ascoltare un'altra canzone. Questa è una canzone di alcuni ragazzi delle scuole superiori di Roma, sono i No Disc, e questa è L'Equilibrio della Sfera. Abbiamo finito adesso di parlare con un ragazzo di Roma che ringraziamo ancora, ci ha raccontato quello che è successo lo scorso venerdì, l'8 aprile, in cui dagli auto-organizzati di Roma, gli studenti medi, era stato indetto uno sciopero, una manifestazione che appunto ha di nuovo sfilato tra le principali strade di Roma e che poi purtroppo, come molte manifestazioni, è stata fermata dalla polizia. E noi oggi volevamo fare un attimo una riflessione sul percorso delle mobilitazioni di quest'anno. Abbiamo nominato molto spesso il 14 dicembre, che è stato l'apice dei movimenti studenteschi italiani. E quindi nell'autunno si erano viste svariate occupazioni, il livello della mobilitazione saliva sempre di più, finché si è arrivati ad esplodere in quella giornata del 14 dicembre tanto contestata, su cui tanto si è sparlato. Si parlava di Black Bloc, di facinorosi come sempre, ma in realtà chi c'era lo sa che lì c'erano gli studenti delle scuole, gli studenti delle università, i precari dei vari settori, dalla scuola pubblica ad altri. E dopo appunto questa giornata del 14 dicembre i movimenti apparentemente si sono fermati, perché forse si è cominciato ad avere un po' di dubbi, ma stiamo facendo veramente il giusto, nel senso, è questo il modo in cui dobbiamo protestare, la rivolta deve andare avanti così. E diciamo, all'inizio la risposta a questa domanda sembrava essere un no, invece adesso abbiamo visto, non solo a Roma ma anche nelle altre città italiane, con il 24, il 25 e il 26 marzo in tutta Europa si sono avute 3 giornate di intensa mobilitazione, e perciò la risposta è stata no, nel senso che i problemi in Italia, come nel resto d'Europa, si continuano a sentire, e assolutamente la rivolta non si ferma, non è quello che vogliamo, non è quello che si vuole, e si vuole continuare. E questo è quello che era il tema principale della manifestazione appunto dell'8 aprile, che rinviava al 6 maggio, dove si svolgerà lo sciopero generale. Certo, infatti, appunto, come dicevi te, questa difficoltà che c'è stata, diciamo, dal grande apice del 14 dicembre, di ricominciare tutto con un'energia nuova, con un'energia un po' più matura, diciamo. Il fatto è stato che appunto le mobilitazioni che si sono susseguite per tutto l'autunno e l'inverno sono state sempre più partecipate, sempre più energiche, ma anche spesso anche senza tanti risultati. Appunto, si è iniziato veramente a parlare di noi studenti dal 14 per criticarci, sostanzialmente. Quindi questa difficoltà, questo non avere un riscontro nelle proteste, in cui noi mettiamo così tanta forza ed energia in proteste delle quali tra l'altro siamo profondamente convinti, proprio perché il disagio si sente molto forte. Appunto, dopo un po' di smarrimento, dopo un po' di fatica a riprendere le cose, vediamo come quest'anno sia anche un po' diverso dalle mobilitazioni degli anni passati, dell'anno scorso ad esempio, e proprio per questo la nostra volontà è quella di non fermarci e di continuare a far capire che a noi così non va bene, e quindi tutte le mobilitazioni che stiamo continuando ad organizzare, ovviamente con dei numeri che non sono gli stessi dell'autunno, però è anche una cosa normale, no? Diciamo, purtroppo è un percorso, diciamo, inevitabile, dove finiscono i movimenti. Certo, però anzi ci riteniamo fortunati, perché di solito finiscono anche molto prima, di solito anche prima di dicembre. Fino a dicembre, diciamo, si sente un po' l'esigenza di fare qualcosa, tanti ci criticano le occupazioni delle scuole come soltanto abitudinarie, mentre dietro ci sono contenuti e ce ne sono tanti, e quindi è fondamentale continuare a farli vedere con queste iniziative, con i nuovi cortei, anche con queste iniziative alternative come ad Ostia il 20 aprile. Infatti invitiamo tutti quanti ancora a partecipare, proprio perché non dobbiamo smettere di lottare nonostante i risultati si vedano poco. Certo. E adesso facciamo un'altra pausa musicale, volevo tanto mettere questo pezzo. Loro sono i Gong, un gruppo nato negli anni 70 da un progetto di David Allen, uno dei fondatori dei Soft Machine, tra l'altro. Loro hanno continuato a suonare fino ad adesso, tuttora suonano. Nel 2009 è uscito il loro nuovo album 2032 e dall'omonima canzone appunto 2032. Non vi dimenticate che siete su Radio Onda Rossa 87.9, state ascoltando Radio Nair, la voce di chi non ha voce. Il numero per chiamarci è 06 49 17 50. Questa è 2032 dei Gong. One day we'll return to this place where we come. e torniamo in linea. Usciamo un attimo dal raccordo anulare da Roma e andiamo a parlare di Torino. Abbiamo qui in linea un compagno di Torino, un universitario. E intanto buon pomeriggio, buongiorno. Ciao a tutti. E, senti, noi stavamo giusto facendo una riflessione su quella sul percorso dell'autunno, come si è evolto e su quello che è accaduto dopo il 14 dicembre e come si sta rilanciando il movimento in Italia e in Europa. Insomma, abbiamo visto quello che è accaduto il 24, il 25, il 26 marzo. Ti volevamo chiedere un po' a te come avevi visto nella tua città evolvere il movimento degli studenti e cosa prevedi per il futuro. Credo che siano da fare alcune considerazioni, soprattutto riguardo a come si è dato il dopo 14, nel senso, credo che la cosa più importante di quella giornata sia stata su due livelli principalmente. Il primo livello è quello del fatto che finalmente degli studenti si sono identificati in un soggetto sociale al di là del semplice essere studenti, della semplice difesa della scuola, ma in quanto soggetto precario, no? E quindi la capacità in questo contesto di descriversi come tale, di farne una identità di classe e attraverso questo di costruirsi come soggetto conflittuale, no? E quindi questo qua credo che sia una delle prime cose importanti che sono uscite dal 14 e che noi stiamo ereditando e ereditiamo nelle lotte. Finalmente il compiersi veramente del soggetto precario come soggetto sociale reale che attraversa molte categorie, dagli studenti ai lavoratori. L'altro aspetto fondamentale, secondo me, è un po' quello che è successo col sedimentarsi di certe pratiche, nel senso che tutta una serie di pratiche che il 14 ci ha raccontato, che il 14 ha compiuto con un salto in più rispetto a quello che era stato prima l'autunno, si sono sedimentate nel nostro immaginario comune e probabilmente si daranno come riproducibili via via nel tempo, ovviamente non con quella forza, ma iniziando comunque a esprimersi in una maniera diversa rispetto a quello che avevamo visto fino a questo autunno. Ecco, appunto. Di sicuro su questo non c'è dubbio sul fatto che il 14 abbia cambiato il segno di tutta una serie di strumenti. Ho capito. Senti, ma appunto parlando di futuro, io so che tu l'8 aprile eri a Roma e volevo sapere, appunto, visto che eri, diciamo, guardavi dall'esterno il corteo proprio perché vieni da un'altra città, volevamo sapere un attimo le tue opinioni su quella giornata e come pensi che abbia potuto rilanciare al futuro. Sicuramente poi io, guardando un attimo da fuori quello che è stato il corteo di Roma, ho visto molte novità interessanti da un lato e dall'altro aspetti in prospettiva da affrontare, nel senso, credo che una delle cose che mi abbia colpito di più subito nell'aspetto proprio mediale del corteo sia stato il vedere gli scudi che sono stati portati in piazza dagli studenti medi, che invece di avere i titoli dei libri come erano stati prima del 14 presentavano scusate degli slogan che però non erano dissociati dal contesto in cui questi scudi erano nati, degli slogan che parlavano di non nucleare, che parlavano dell'acqua bene comune, che parlavano del no al controllo della vita, che parlavano dei bisogni che ogni giorno gli studenti vivono e che in questa occasione hanno voluto portare in piazza con una conflittualità nuova e potente. Infatti anche nelle pratiche devo dire che di sicuro tante cose che ha spesso questa piazza, anche nei suoi numeri non enormi ma sostanziali, sì, anche nelle pratiche appunto di piazza si è un po' rivisto quello che voleva essere il 14, ma reinvestito in un'altra maniera, appunto la voglia di arrivare ai palazzi del potere per sfiduciare ancora una volta tutta questa classe politica e comunque tutti questi aspetti che come abbiamo visto hanno caratterizzato questa giornata e che probabilmente secondo me sono uno spunto e un lancio verso il 6 maggio e verso quello che potrebbe essere il 6 maggio nell'immaginario delle varie città. In un certo senso, poi riagganciandomi alla prima domanda che mi hai fatto tu, vedo anche un interessante rimbalzarsi, se vogliamo, del modo di fare conflitto da quelle che sono le piazze londinesi, che si sono espresse per esempio il 26, a quelle che sono le piazze nostrane. C'è una voglia reale di muoversi insieme verso una lotta contro l'austerity, contro il capitalismo cognitivo e contro questa politica di tagli indiscriminata alla conoscenza. Quindi devo dire che secondo me gli aspetti interessanti sono questi, cioè da un lato proprio come abbiamo detto più volte, un soggetto sociale che è euro-mediterraneo e che esprime la propria precarietà come comune denominatore e dall'altro una capacità di esprimere delle pratiche, di cambiarle di segno, di rinnovarle continua e intelligente sicuramente. Infatti parlavamo appunto dell'importanza di continuare proprio per queste dinamiche che si sono create per tutto ciò che è stato il 14 dicembre e non soltanto quello, quindi comunque ti ringraziamo per questa tua testimonianza appunto che a noi interessa molto, è molto importante e ci auguriamo ecco di continuare insieme questo percorso di lotte e di mobilitazioni. Grazie anche a voi. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao, grazie. Adesso facciamo un altro intervallo musicale. Abbiamo deciso di andare un attimo sul classico. Mettiamo gli Scapè con Legalizzazione. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! De Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. ¡No hay chinas! Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. De calidad y barato, legalización, cannabis, basta de prohibición. Aprender y ya no. legalita flow, cannabis, de calidad y barato. Legal, legalita flow, cannabis, basta de prohibición. Legal, legalita flow, cannabis, de calidad y barato. Legal, legalita flow, cannabis, basta de prohibición. Stiamo arrivando in chiusura della puntata, vi ricordiamo che siamo sempre su Radio Onda Rossa 87.9 MHz, il numero per chiamarci è 06 49 17 50 e questa è Region Air. Vi diciamo, siamo arrivati in chiusura purtroppo oggi non abbiamo potuto invitare nessun giovane musicista che ci facesse ascoltare un po' di buona musica e da intervistare, e perciò abbiamo deciso di fare noi due un po' di musica, nel senso di mettere un po' di musica dei gruppi che ascoltiamo, che ascoltano di più giovani, e parlarne un po'. E prego. Bene, allora adesso ci ascoltiamo Vuoti a perdere degli Zen Circus con la collaborazione di Nada. Gli Zen Circus sono un gruppo, diciamo, punk, folk, rock e indie rock, un po' misto, un po' molto originale. E appunto questo Vuoti a perdere è un pezzo dell'ultimo disco, che si chiama Andate tutti a fanculo, quindi molto evocativo anche il titolo. E appunto la loro musica è piena di anticlericalismo, piena di invettiva politica, e ci ascoltiamo appunto Vuoti a perdere. Solo inaffidabile. crescere. Passiamo al prossimo gruppo. Io ho scelto un gruppo nato nel 1996 che ha debuttato a Sanremo nel 1999, ripartecipando due anni dopo. Inizialmente il cantante era John DeLeo, che purtroppo nel 2005 ha lasciato la band, e dico purtroppo perché aveva una voce veramente fantastica, riusciva a fare cose che pochi al mondo riuscivano a fare. Nel 2009 anche l'altra cantante se n'è andata. Noi ascoltiamo un pezzo dell'epoca di mezzo tra il 2005 e il 2009, si intitola Il Cannone. Dai sani principi, io non ho confini e neanche radici. Vendo agli amici, vendo ai nemici, vendo anche agli amici dei nemici degli amici. Già, vendo anche agli amici dei nemici degli amici. I cannoni, anticannoni, polvere da sparo, mine, razzi, otturatori, bombe intelligenti, sminatori e carri armati. Poi coi carri armati mi guadagno i cari amati. Su di me, non ci credo che volessero far male proprio a me, che sono il tipo che è riuscito a costruire attorno a sé in modo giusto un mondo guasto e sopravvivere perché me la vedo. respira, il mondo spara, e c'è chi spera, il mondo spara, e c'è chi ispira, il mondo spera, il mondo spara, il mondo spira. Stanno arrivando le 5 qui nello studio di Radio Onda Rossa 87.9 MHz. Vi ricordiamo il numero 0649 1750. Questa è Reggio Nera, sta per finire, lasciando lo spazio al martedì autogestito da femministe e lesbiche. Per chiudere mettiamo un pezzo di un gruppo che non ha bisogno di presentazione. Il pezzo si intitola Viva Fernandez. Ciao a tutti, al prossimo martedì. Di urlare, mi troverai a girare le piazze e gridare. Viva Fernandez! Che viva Fernandez! Versa da bere ad un innamorato. Un giorno sarò ricco e ti farò regina, regina dei fiori, e versa da bere a un povero assetato. Povero da poeta, ricco come un gabbiano, vola sulla vita con la sua fantasia. Non posso stare in casa a pensare, fuori è tornata la gioia di urlare, mi troverai a girare le piazze e gridare. Versa da bere un albero sradicato, spostato dai venti e dalla curiosità, un nomade in amore e felicità, un nomade in amore di felicità. Così parlava il vecchio Frichedon, il re dei maghi e delle magone, della preghiera io non voglio denari, solo viva allegria, calore delle mani. Così parlava il vecchio Frichettone, il re dei maghi e delle